21.05 Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Inizia anche per oggi, mercoledì 24 gennaio del 2018, l'appuntamento consueto del mercoledì sera, da adesso sino al 22.30. Contatto telefonico 0649 1750, sito internet www.ondarossa.info anche per usufruire del nostro streaming. Ondarossa@ondarossa.info per le comunicazioni mediante posta elettronica, e questo spazio ha anche una pagina Facebook, prove tecniche di trasmissione /disorder, già adesso abbastanza frequentata, e qui domani verranno pubblicati podcast e playlist, cosa che farò anche e ovviamente nel sito della radio stessa. Salutiamo Alessandra qui da Roma, Enrico Cerrato da Asti, il buon e fedelissimo Raffaele Pezzella da Napoli, Ugo Braida anche qui da Roma che salutiamo. Alle 22.30, 25 o'clock, concluderà il palinsesto odierno. 6180 4001 invece il conto corrente postale, perennemente goloso di soldi per le nostre necessità, in primis quelle di trasmettere con macchinari aggiornati. Intestato dunque questo conto corrente a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via Voce 56, 00185 Roma. Nel sito poi si trovano le altre modalità più elettroniche. Salutiamo Giovanni, anche Campagna da Copenaghen, il buon FM qui da Roma. E noi andiamo ad iniziare da un artista olandese, si chiama Joop Smeling, ma è meglio conosciuto, diciamo tra virgolette, già che stiamo parlando sempre di nicchia, attraverso il nome Foundation Hop. È uno dei numerosissimi artisti passati attraverso l'avventura della Cold Meat Industry, un'avventura musicale terminata qualche anno fa, e già in questo 2008 con questo Our God Is a Consuming Fire approdò alla Autarcheia, una interessante label proveniente dalla Lituania. E da questo lavoro ci ascoltiamo Strange King of Grace e Every Tongue Should Confess. inizio alquanto astratto, come però spesso accade qui a Prove Tecniche di Trasmissione. Questa volta all'inizio è toccato a Foundation Hop, questo progetto di John Sampip. Anzi, Joy Smalling. Ricordo proveniente dall'Olanda, e questo, come Foundation Hop senza collaborazioni, rappresenta l'ultimo lavoro ormai del 2008, e quindi si è perso un po' le tracce di questo artista. Questo album uscina per l'Autarcheia, che per un periodo ha dato alle stampe ottimi e interessanti lavori, questa etichetta della Lituania. Salutiamo anche Like Awake, Stefano Di Serio qui di Roma, valente musicista di Space e Dark Ambient. E di nuovo il buon Ugo, che spero anche in prospettiva ci delizi con la sua compagnia qui in Prove Tecniche di Trasmissione. È il momento di Northern Lights, questa etichetta ideata dal già nominato Raffaele Pezzella, un album del 2016 con il sottotitolo The Scandinavian Experimental System Survey, e quindi si può intuire che anche questa compilation andava un po' a studiare ed apprezzare la parte più sotterranea della Scandinavia dal punto di vista dell'sperimentazione sonora. È già qualche settimana che ce lo stiamo gustando, e questa sera tocca a un artista, anche questo abbastanza ignoto a me quantomeno, si chiama Untermensch, e ci ascoltiamo la lunga No Goats. si chiama Untermesh. Questa No Gods, echi di lontanissimi Pink Floyd, di inizio Pink Floyd, e quindi la psichedelia di quegli anni, più evidentemente anche un'influenza diretta dai Corrieri Cosmici di tedesca memoria. Un saluto anche al Fubio Biondo di Store Orloge, storico progetto sperimentale qui di Roma, che ci dice pure, leggo qua proprio, che oggi è morto anche Mark Smith, fondatore dei Fall, gruppo storico del post-punk inglese, quindi un'altra perdita musicale. Il tutto, tanto per tornare a Untermesh, estratto da Northern Lights, grazie a Raffaele Pezzella, alla sua Nespless Sounds, sia label, sia anche gruppo di appassionati di profilo Facebook. Eccoli qua, immancabili nelle vostre ultime selezioni, Pact Infernal, questo duo proveniente dal Belgio che riprende in parte anche l'atmosfera di Untermesh, anche se il profilo è più elettronico e più scansionato. Infernality, ultimo lavoro del 2017, questa sera ci ascoltiamo Retribution e la splendida traccia di chiusura Rites of Passage. Una delle novità più interessanti del passato 2017, Pacto Infernal, con questo Infernality. Un album pregno di ritualismo, di sacralità e tribalismo. Un album che esce per un'interessante etichetta tedesca, la Oro, un'etichetta emergente che cercheremo anche di seguire attraverso altri artisti. Un album che si chiudeva con questa bellissima Rites of Passage. 21:42, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. E quindi siamo già a metà programma, tracce abbastanza lunghe questa sera. Dopo la Germania, dopo il Belgio, scusate, torniamo in Scandinavia e lei è Björk, che ovviamente non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Mi limito a dire che è apprezzabile il fatto che da molti anni ormai abbia rivolto il suo sguardo verso forme di musica molto più introverse rispetto agli esordi. E quindi rischiando la carta della meno immediatezza, ma sicuramente una maggiore propensione verso la sperimentazione. E il tutto viene confermato anche da questo ultimo lavoro dal nome Utopia. Ci ascoltiamo Cowship e Loss. You know. Interessante questa sorta di schizofrenia sonora ideata da Bjork, con questa voce che tenta di confezionare atmosfere sognanti, ma che si va a scontrare invece con la scomposizione del suono e con la sua attitudine sperimentale, così ben espressa anche in questo Utopia, anche in queste due tracce che ci siamo ascoltati per questa sera. C'è molto breakbeat e appunto destrutturazione sonora nelle sue note musicali per Bjork, artista islandese, ricordo. E da lei, assai nota, passiamo invece a un progetto qui romano. Questo è tutto da scoprire e da consigliare. Si chiamano Nastro e hanno già dato alle stampe quattro lavori. Noi siamo andati poi a scandagliare quasi gli esordi di Nastro attraverso questo CD composto da due tracce dal nome 300 metri quadri, composto da due lunghe composizioni che si muovono anche qui tra astrazioni, scomposizione del suolo e molta attitudine noise. Ci ascoltiamo un passaggio abbastanza lunghino della traccia che porta il nome semplicemente di A.